A volte basta poco per salvare la pelle. Se tutti usassero la cintura di sicurezza, in Italia ogni anno si salverebbero 1000 persone. Pensaci quando sali in macchina. A tutti l'augurio di viaggi sereni e di vacanze coi fiocchi. Da Margherita Hack. Quest'estate sulle strade, dai un passaggio alla sicurezza. Vacanze coi fiocchi a tutti.